Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ok, buonasera, Blu Radio Sera. Nel corso di Blu Radio Sera stasera facciamo Rock Wave. Anche questa volta lunedì, straordinariamente, grazie a Francesco Galante, il nostro grande capo che è in regia, che ci permette di suonare stasera coi Faccia Scura. Buonasera Faccia Scura. Ciao a tutti. Avete fatto un buon viaggio da Verona? Sì, decisamente. Bene. A parte le rotonde di Padova e i viadotti, ma... Le rotonde sono così a Padova, capita. Bisogna abituarci. Esatto, ma siete arrivati, c'era l'antenna della radio che vi ha dato il punto di riferimento e siamo arrivati. In perfetto orario, sono le 21.02. Stasera facciamo un'ora e mezza, fino alle 10:30 della vostra musica. Bene. Questo è una cosa molto importante. Intanto, il vostro è un disco di esordio, mi pare. Sì, è un disco di esordio anche a lunga gittata, esatto, possiamo dire così. Certo, anche se esatto, viene da più di 10 anni di attività. Quindi, esattamente. Esordio discografico, ma non musicale, non artistico. Esordio discografico, esattamente. Musicale. Tanta carne al fuoco, tanti anni di concerti, di live. Vera e propria gavetta, quella della vecchia guardia. La gavetta, com'è nato il progetto Faccia Scura? Voi fratelli siete voi due, avete portato avanti il discorso e poi è arrivato il bassista e poi gli altri due ragazzi. Sì, esatto, noi abbiamo iniziato a suonare veramente all'inizio degli anni 90, quindi veramente da piccoli, da adolescenti. E tanta gavetta live con progetti... giovanili, adolescenziali, ma poi un progetto più serio, più rock, che si chiamava Davy Jones, con cui abbiamo fatto moltissime date, da cui nucleo poi sono nati Faccia Scura. Dapprima con me e Carlo, a cui subito, quasi subito, si è aggiunto anche verso la fine degli anni 90 Cristian Meggiolaro al basso, il nostro bassista, che ha un bel basso stasera, bello, proprio un bel basso acustico, bellissimo. Non è mio, però. Non è tuo, non importa, è sempre un bel basso. Grazie. Ok, poi? Dopodiché abbiamo suonato con moltissimi musicisti, per questi ricordo Edoardo Egua, Michele Rinaldi, Eric Spericato. E invece nel corso della lavorazione del disco, che è stata una lavorazione molto lunga, si sono aggiunti fortunatamente due musicisti con cui suoniamo ancora oggi e suoneremo per molto tempo, credo, che sono Filippo Romano alla chitarra e Simone Marchioretti alla batteria. Sono dei guest, degli ospiti praticamente. No, noi speriamo che vogliano rimanere. Poi oggi magari... pianta stabile praticamente. Sì, anche perché siamo stufi di cambiare batterista sostanzialmente. Benissimo. Quindi sono praticamente... Sono parte integrante dei Faccia Scura, che non esisterebbero oggi come oggi senza di loro. Quindi sono entrati, adesso... Sì, praticamente sono parte integrante, certo, al 100%. E hanno anche partecipato alle riprese del disco. È una cosa fondamentale, perché la batteria è una cosa fondamentale, la ritmica. Per la vostra musica la ritmica è fondamentale al 100%. Per molte musiche, la nostra di certo, anche perché è un rock in cui il segno ritmico è veramente importante. E del resto anche tecnicamente, quando si incide, l'ossatura del pezzo viene data proprio dalla batteria, quindi... avere una base ritmica consolidata con uno strumentista valido è una delle cose più importanti, insomma, quando si incide. E il ruolo di Filippo, che è qua davanti? Ma Filippo ci ha dato veramente una qualità aggiunta, ha portato la possibilità di portare live questi pezzi del disco nel modo più appropriato. Certo, io ho scritto: il suono dei Faccia Scura è assolutamente indie rock. Ed è verissimo. Assolutamente, cioè fa parte dell'indie rock, quella corrente, se è consentito il termine, che cerca di sviluppare certi discorsi nell'ambito del rock. Ecco, diciamo che in realtà l'indie, oggi come oggi, non è quasi più rock. No, esattamente. L'indie è post rock, è un certo tipo di pop, ma non è più rock. E mentre negli anni 90, per dire, l'indie era assolutamente rock. Noi indubbiamente abbiamo le radici in quell'epoca lì, anche anagraficamente, vuol dire, siamo tutti trentenni e quindi siete giovani, in ogni caso siete giovani, certo, rispetto a me, giovanissimi, rispetto a me, giovanissimi. Tuttavia non ci riteniamo solo materiale di quell'epoca là. Noi diciamo facciamo quel rock che si sarebbe dovuto fare negli anni zero se un altro tipo di scena non fosse venuta la ribalta. In questo senso noi non facciamo parte tanto della scena emergente quanto della scena sommersa è un po' la continuazione di un discorso che si è interrotto con l'arrivo dei vari talent, reality, insomma tutta gente che magari è tecnicamente validissima ma a cui manca la gavetta. Certo. Sapere quanto è difficile suonare dal vivo un pezzo dei Led Zeppelin piuttosto che un pezzo dei... Hai detto una cosa giusta, manca la gavetta. Per suonare, per arrivare a suonare in un disco, a fare una produzione, bisogna fare tanta gavetta, bisogna fare tanta esperienza live, secondo me. Certo. Anche perché sennò è una storia che comincia e si spegne subito. Abbiamo gli esempi più fulgidi proprio da questi fuoriusciti dei vari talent reality. Durano il tempo del singolo, il tempo dell'EP, ma poi nessuno si compra il disco perché dicono vabbè, l'ho già sentito in TV, l'ho già sentito in trasmissione. Certo. E poi tagliano i tour perché nessuno compra i biglietti. E questo è il signore dei dischi che guarda dall'alto e dice no, così non è giusto. Ma sai, all'inizio l'etichetta... dischi si vendono per modo di dire, si comprano nei concerti, c'è un po' di movimento, però dopo spariscono chiaramente. Spariscono. Sì, durano fino a che non arriva la stagione dell'anno dopo, esce quello dopo e dice beh, tu non conti più nulla, stai pure a casa che tanto... Già il titolo è abbastanza importante, quanti ne sacrificheresti? Cioè una cosa abbastanza, un bel pugno nello stomaco come titolo, lo dite? Sì, allora il titolo si ispira ad un monologo contenuto in un romanzo di Fitzgerald, che il romanzo si chiama Belli e Dannati, in cui una dei protagonisti, Gloria, in un delirio di febbre, Gloria che prima era molto ricca e poi si trova ad essere molto povera, in un delirio di febbre afferma in piena libertà che sacrificherebbe anche 1 milione di persone in cambio di una bella stola di pelliccia. Ho capito. Benissimo, allora facciamo una cosa di questo genere, apriamo la finestra, sentiamo il primo pezzo. Cavi è già, ripeto, anche questo un bel pugno nello stomaco, musicalmente parlando, secondo me, cosa dite? Certo, diciamo che è il segno distintivo di un po' di tutti i nostri pezzi, in generale della musica che facciamo, non vuole assolutamente accontentare nessuno, neanche divertire nessuno, vuole in caso colpire, vuole far pensare, ma certo non divertire, non è entertainment come... In generale lo è pop. Ma il rock non è entertainment, secondo me. O è entertainment? Non dovrebbe esserlo. Quello, come dire, quello è pop. Pop è un'altra cosa. Esatto. Anche se il pop e rock qualche volta si mischiano. Poi si mischiano. In realtà poi anche il rock può diventare pop quando è comprato da tutti, come negli anni 90, che ne so, un pezzo assolutamente rock come Smells Like Teen Spirit a un certo punto diventò pop. Diventò pop, sì. Cioè, in effetti il pop non è un vero e proprio genere, è più che altro quello in effetti che è popolare. Sì, popolare, esattamente. Il segno istintivo, il confine fra pop e gli altri generi è segnato semplicemente da quello che va in quel momento. Insomma. Perfetto, sentiamo Cavi e iniziamo questa nostra presentazione. Thank you. Sera, Blu Radio Sera. Eccoci qua. Parliamo un momento di questo pezzo, come si è sviluppato, un pezzo potente, aggressivo, un pezzo live assolutamente, anche se qui non è live. Certo. Allora il pezzo, intanto da un punto di vista del testo si ispira un po' alla scrittura di Chuck Palahniuk, che è uno scrittore famosissimo, che sicuramente la sua opera più celebre è Fight Club, certo, da cui è stato tratto anche il film di David Fincher. Sì. Tuttavia in realtà il libro è molto più aggressivo, molto più nichilista, e proprio a questo, diciamo, modo di questa filosofia nichilista mi sono voluto ispirare. Il messaggio è molto semplice, in realtà è uno dei più semplici di tutto il disco, e cioè quando ci si sente male, ci si sente trattati male in qualsiasi ambito, forse la reazione più spiazzante per chi ti tratta male sarebbe di vedere che tu, come dire, non solo non reagisci, non solo ti fai mettere sotto, ma non torni su, non ti ricicli, non gli dici sì va bene, non torni su, ma non ti fai nemmeno riciclare, cioè ti annienti. È chiaramente un messaggio paradossale. Certo, paradossale. Capito. Come nasce un pezzo di Faccia Scura? Lo scrivi te, lo scrive Carlo, lo scrive Filippo, no, chi lo scrive? Allora, in questo particolare disco i pezzi, sia per quanto riguarda la musica che per quanto riguarda i testi, li ho scritti io. Li scrivi tutti te? In realtà, probabilmente già dal secondo disco, questi equilibri cambieranno, cioè essendo noi ora veramente un gruppo, probabilmente ci sarà l'apporto un po' di tutti, insomma, sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista dei contenuti del testo. Però in questo particolare disco è soprattutto frutto, diciamo, del mio pensiero. Del tuo pensiero, quindi dovevi rompere il ghiaccio praticamente, posso definirlo una specie di greatest hits delle cose che avevi scritto precedentemente o no? Sì, certamente, perché in realtà questi pezzi ce ne sono alcuni di recenti, alcuni che hanno addirittura 10 anni. Ok. Quindi, anche se poi da un punto di vista musicale, da un punto di vista dell'arrangiamento e della produzione sono stati rimodernati, chiaramente sono pezzi scritti in un tempo lunghissimo. Parliamo di vostri angeli custodi alla produzione, Giancarlo Onorato e Andrea Viti. Giancarlo Onorato, dobbiamo ricordarlo, gli Underground Life era un gruppo new wave italiano, forse il maggiore con i diaframma, con i fibra, cioè gruppo molto avanti all'epoca. La new wave italiana era Giancarlo Onorato, potremmo definirli la new wave italiana praticamente. Certo, beh, lui è un innanzitutto un amico ed è un personaggio importantissimo per la storia della musica italiana, perché appunto lui insieme a Federico Fiumani, insieme ad Andrea Chimenti di Moda, e poi Piero Pelù di Litfiba, certo, sono certamente, cioè, quelle 4-5 personalità che hanno portato la new wave, cioè il rock new wave in Italia. La nostra musica non trae particolarmente spunto da quel periodo, ma più da quello successivo, certo. È indubbio che quel periodo sia stato svecchiante nei confronti della musica italiana, che era un po' impastoiata diciamo nelle secche del cantautorato, che ormai un po' aveva finito, cioè, aveva fatto l'epoca, però era un ciclo, si era un po', era un po', è un ciclo un po' chiuso, sì, esattamente. Certamente l'altra persona, anche questo è un grandissimo amico, è un'altra persona veramente fondamentale per il rock italiano, ed è Andrea Viti, fondatore insieme a Davide Moretti dei Karma, e poi anche per 10 anni componente stabile degli After Hours. Sì. E entrambi hanno fatto parte della squadra, insieme a me poi, della squadra di produzione di questo album, e crediamo, insomma, sia stato un team di lavoro insieme poi a tutti i musicisti che ha dato dei buoni risultati. Hai detto giusto, un team di lavoro, perché i suoni sono perfetti, non sono buttati, sono perfetti, duri, meno duri, dipende dai momenti, ma i suoni veramente, non ci sono delle sfasature, io ho notato questo nel disco. Ecco, su questo, per questo dobbiamo soprattutto ringraziare veramente la competenza di Andrea Viti, che come produttore non è certo un millantatore come spesso accade nell'ambito, ma è una persona che sa veramente muoversi in qualsiasi fase della produzione, dall'arrangiamento all'incisione, al mixaggio, alla post produzione. vi ha messo dei paletti o vi lasciavo a briglia sciolte? Voi ah, avete fatto. Guarda, dimmi. Io quello che ho visto, perché in realtà questo disco l'abbiamo registrato anche in un periodo abbastanza lungo di tempo, a Verona, in uno studio che poi ha cambiato gestione, una serie di vicissitudini. Una serie di cose. A un certo punto avevamo finito, avevamo addirittura una traccia in più, erano tutti molto più carichi i pezzi, c'erano tante seconde voci, tanti arrangiamenti di chitarra acustica, chitarra elettrica. Per fortuna è arrivato Andrea, che vedeva davvero la luce in fondo al tunnel, ha visto dentro a tutto quel marasma che per noi era diventato ormai parte di noi stessi, quindi irrinunciabile. Cioè l'idea di togliere, una volta che ci hai passato così tante ore sopra a registrare, a far fatica, sembra quasi una violenza su te stesso. Io mi ricordo di aver inciso cori difficilissimi, tantissimi, complicatissimi su certe canzoni di questo disco. Hanno cominciato la fase di post-produzione e missaggio, che io ero via, sono tornato a metà, mi sono seduto in studio ai Jungle Sound tra Francesco e Andrea Viti per sentire il lavoro che avevano fatto e sono rimasto frustrato subito, perché di tutto quello che c'era nella mia mente non c'era più niente, assolutamente niente, perché aveva tolto di qua, tutto, modificato di là, riampato un sacco di suoni. E poi però quello che lui ha fatto, secondo me, di grandioso per noi è stato quello di farci riscoprire quello che in origine probabilmente dovevamo essere in questo disco. Allora, diretta rockway.altervista.org con Francesco Galante in regia, è arrivato anche Agostino, che probabilmente farà il fotografo, adesso non so dove sia andato, e Maurizio Calzavare al microfono. Adesso sentiamo un altro pezzo vostro, mi pare Il cielo, la traccia numero 10. Esatto, che è una cover. Che è una cover di? Dei Karma. Ecco, tra parentesi. È stato un omaggio che abbiamo voluto fare ad Andrea, e un regalo che abbiamo voluto fare a noi stessi, di incidere un pezzo che noi abbiamo sempre amato, tutti quanti. E proprio in questa traccia hanno suonato sia Philip che Simone, e abbiamo avuto anche l'onore di avere come ospite a cantare una parte del brano il cantante originale del gruppo, ovvero David Moretti, che ha portato con la sua esperienza, voce meravigliosa, secondo me una marcia in più a questo pezzo. Perfetto. Per cui Il cielo. Ok. Blu Radio Sera. Eccoci qua. Sì, mentre il pezzo andava avevo sentito qualcosa che mi interessava molto. Io ho detto Hendrix, ma non era Hendrix. L'archetto non era di Hendrix, ma di un riferimento ad un altro grande, lo stesso, no, hendrixiano, però vai. Sì, beh, chi usava l'archetto del violino sulla chitarra era soprattutto Jimmy Page. In realtà l'hanno fatto in molti, ma Jimmy Page è certamente il personaggio primo, più famoso. Più famoso. Ecco. E sì, lì abbiamo scelto dal punto di vista dell'arrangiamento nel cielo di non fare un assolo, ma fare un noise, cioè usare appunto l'archetto, però sulla chitarra acustica. Ecco, bello questo. Distorta. Quindi, bello, interessante. Diciamo, un noise, un vero e proprio, tecnicamente appunto si chiama noise, quando non si può dire che si facciano delle vere note che seguono un'armonia, una scala, ma si va appunto verso la ricerca di un rumore che però sia gradevole. L'idea è stata tua di fare questo pezzo, cioè questa ultima parte in questo sistema, in questa misura. Sì, indubbiamente, diciamo, io sto veramente esplorando questa parte di musica, cioè in generale il noise, un po' anche seguendo le impronte di Andrea Viti, in genere anche degli After Hours o comunque del noise degli anni 90, insomma. Quindi l'idea è quella praticamente, però lo sviluppo è vostro chiaramente, certo, ci sono degli input e diciamo, basta. Gli input ovviamente, cioè bisogna sempre riallacciarsi alle grandi esperienze precedenti. La cosa differente è che qua l'abbiamo fatto su un pezzo acustico, quello che generalmente il noise viene è assolutamente in un ambiente musicale elettrico, anzi molto elettrico. Qui invece l'abbiamo messo in un ambiente acustico e questa forse è una nota di... indubbiamente di originalità. Hai messo in difficoltà gli altri componenti della band oppure no? No, perché in realtà poi quando si incide queste cose si incidono separatamente. Poi quando invece si suonano, invece si devono suonare. Più che altro in difficoltà i fonici quando suoniamo, perché quando apro la custodia della chitarra, certo, e prepara, no, che poi faccio anche un pezzo con l'archetto, dovresti vedere lo sguardo allucinato del fonico, del tecnico di poi che dice e questo come te lo faccio suonare? Vanno fuori tutti i parametri praticamente. Ma in realtà metto in difficoltà soprattutto me stesso, perché in realtà mentre suono dover prendere un archetto e, come dire, cambiare anche l'impostazione dello strumento e suonare, la vera difficoltà me la metto me stesso. E il nostro bassista come si comporta in questo pezzo? Beh, il bassista qui in questo pezzo si comporta molto bene, perché veramente la base ritmica molto semplice, quasi minimalista, in questo pezzo è fondamentale. Sì, perché è stato interessante dover reinterpretare il pezzo di nuovo in maniera molto diciamo personale, perché ovviamente il pezzo non doveva essere uguale all'origine, ma staccare parecchio da quella che era la canzone originale. La prima stesura era diversa allora. No, quella originale dei Karma era ovviamente molto più potente. Esattamente. No, la prima stesura, c'è stata una prima stesura vostra di questo pezzo. Sì, beh, noi abbiamo iniziato suonando a come ce la ricordavamo, più vicina al disco, anche perché era un piacere suonarla e ricordarsi di quel suono meraviglioso, certo, che ha quel disco tutto, ma poi quella canzone. È una cover per modo di dire, poi l'avete ricostruita voi. Sì, per renderla, per personalizzarla, per rendere la canzone inserita nel nostro disco che avesse un senso, perché rifarla uguale. No, non vale la pena. No, ci sono loro che la fanno talmente bene. Talmente bene che rifarla è proprio uno spreco, spreco di nastro. Il discorso è una cosa, cioè secondo me le cover, se si devono fare delle cover, devono essere ricostruite in una certa maniera, se no se sono le cover fate come Catina e Tornasole non ha senso, a mio parere, non so se siete perché a quel punto lì prendi il CD originale e lo metti sull'ascolti. Una volta negli anni 60 si usava quello, cioè, fare le cover come Catina di Tornasole, c'erano tanti gruppi, esclusi i Nomadi, che avevano sempre un'idea diversa di cover, mettiamo i Dick professionisti serissimi, certo, bravissimi, certo. Però c'era quell'idea là di portare una cover come Catina di Tornasole. Non è neanche facile farla uguale, è difficile. Però diciamo che secondo me, dopo, questo dipende tutto dalle impressioni di ciascuno, però appunto come abbiamo detto fino adesso, la cosa ha più senso se viene stravolta. Certo. Ed è stato così, cioè. Ok, diretta rockway.altervista.org. Ringraziamo anche il nostro organizzazione e il direzione artistica che è Alberto Prisco. Adesso siamo pronti a suonare, ragazzi. 21:29, proprio ricordate, c'è un famoso programma Rai di molti anni fa, famoso, che curava Carlo Massarini, si chiamava 21:29, e alle 21:29 cominciamo a suonare dal vivo. Esatto. Adesso cominciamo a suonare dal vivo. Benissimo. Esatto. Allora, il pezzo con cui vogliamo iniziare si intitola Quadrante Zero. Perfetto. Thank you. sento così debole. Fuori è solamente spazio e tenebre, ed il freddo è siderale, ed il vuoto è sotto le mie palpebre. Benvenuto nel quadrante, tra un istante l'ansia e il dolore non saranno che parole su uno schermo, e con un tasto le farai sparire, con un tasto le farai sparire. E sarei contento d'essere una molecola da respirare e fare quello che si aspettano. Scomparire in modo naturale. Radio Sera. Eccoci qua. Bella versione, una versione, posso dire, leggermente psichedelica. Un pizzico di psichedelia c'era assolutamente nella tua voce, con molto pathos, ma cadenzava, colorava il pezzo, e tu e loro ti seguivano chiaramente. Sì, poi ci siamo divertiti in questa versione acustica un po' a, visto che non era possibile fare l'assolo della chitarra, avere crescendo, a giocare un po' con la voce, con un po' di suoni un po' così diversi dal modo solito di sentire le voci nei dischi o anche nelle esibizioni dal vivo. Ma è bello la versione acustica, perché l'acusticità è una cosa importante, secondo me. Vengono fuori delle cose molto interessanti, nascoste, che si sviluppano. Certo, l'acustico, cioè spogliare una canzone di tutto quello che c'è intorno, può, come se fossimo in una miniera, scavando, portare alla luce il tesoro, però dall'altro lato, scavando, certe volte si trovano le fognature, eh? Quindi sì, è un rischio. Non è il caso vostro, no. Si trovano le fognature. No, è sicuramente un rischio, perché togliendo certe volte, ma anche in canzoni celebri o che, sì, certo, sono, che hanno un appeal incredibile, magari radiofonico, togliendo un po' di cori, un po' di arrangiamento, tornando a quello che è l'essenzialità del pezzo, si scopre che certe volte sono di quelle, se si può dire, boiate. Sono d'accordo con te, ma se uno ha voglia di fare ed è bravo, l'acusticità non gli fa paura assolutamente. No, anche perché poi dovendo suonare dal vivo a Verona o anche intorno a Verona, dove i locali, purtroppo i veri club per musica dal vivo sono scomparsi tutti. Apriamo sta parentesi della difficoltà di suonare live. Allora esiste l'acustico questa... è fondamentale, perché come vedi qui siamo, qui stasera siamo in 5, ma occupiamo davvero poco spazio. Certo, certo. E quindi in questo set acustico bisogna essere capaci di suonare acustica i propri pezzi, ma anche aggiungendo cover, e reggere uno show. Però possiamo andare a suonare davvero dal locale piccolo, piccolissimo, e poi senza il problema di dire questa non la posso fare perché non ho la batteria, questa non la posso fare perché non c'è la chitarra elettrica. Perché purtroppo adesso non so come sia la scena padovana di preciso, ma a Verona, non cambia molto. A Verona negli anni 90 c'erano un sacco di bei locali. Certo. C'era il Posto, c'era l'Usignolo, i due più grossi che c'erano, che addirittura c'era la gente che veniva dall'estero, personaggi, perché avevano una programmazione e un nome rilevantissimi. Adesso ci sono dei bar che magari hanno una stanza in più e la deputano a musica dal ma vivo. Ma perché secondo te? C'è questo allontanamento, i locali non partecipano, niente. Le cover di Vasco e di Liga, bravissimo. Poi Liga adesso dal disco nuovo, ancora meglio. Bravissimo. Le cover, solo le cover, ma perché? Ma perché, rispondo io, per una cosa che mi sta un po' abbastanza a cuore. Cioè, diciamo che certi fenomeni culturali vanno a decenni. Sì. Allora, certamente gli anni 90, gli anni 80 sono stati certamente un momento di innovazione culturale, di scoperta e di esplorazione. Poi negli anni 90 abbiamo avuto un decennio indubbiamente rock, cioè dove dal punto di vista musicale, soprattutto una scena indipendente, si era stabilizzata, cioè quella scena si era stabilizzata sul rock. E quindi, ad esempio, negli anni 90, dal momento che andava molto di moda il rock, ci volevano anche i locali per farlo suonare. Dire cosa gli anni zero abbiano portato la musica è molto difficile. Molto difficile, vero? Lady Gaga. Un momento, Lady Gaga. Va sì, bene. Sono d'accordo. Certo. Milioni di copie vendute. Ma cosa sono stati gli anni zero? Sono stati gli anni del fitness, dei reality, lo so. Della TV, o dei fenomeni musicali nati su internet. Quindi anche il concetto di scena, cioè di scena musicale territoriale, legato magari a un paio di locali o alla coesione di gruppi sul territorio, cosa che aveva fatto la grandezza delle scene indipendenti italiane negli anni 90, sono venute improvvisamente a mancare. E quindi anche gli imprenditori, sì, ho capito, gli imprenditori hanno per forza, insomma, sono, come dire, hanno fiutato, come dire, il fenomeno culturale e sono andati in quella direzione. Cose. Io credo comunque che ci sia in un certo senso un ritorno alla musica live come tendenza. Sì, io penso proprio di sì. E in genere anche al rock. Non è un caso che solo quest'anno ci siano state 3 o 4 reunion molto importanti di gruppi anche veramente grandi, internazionali, come Faith No More, gli Alice in Chains, Stone Temple Pilots. Anche Late FIBA, però. E qua c'è, no, però, per carità, comunque Elite FIBA avevano il loro perché, adesso dovranno. Ma qualcuno ha detto: senza Piero l'altro non vendeva, e senza l'altro non vendeva, quindi siamo sempre là. No, va bene. Insomma, dell'Elite FIBA se ne deve parlare bene, soprattutto per quanto riguarda, come dire, i primi dischi, la prima parte. Bellissimo. Dopodiché, per quanto riguarda il resto della carriera, io sinceramente, personalmente, non mi esprimo, perché comunque riconosco quell'importanza che hanno avuto, dopodiché dal mio punto di vista personalissimo posso dire che non mi piace quello che hanno fatto. Okay. Quello però hanno avuto un merito di FIBA, e cioè di rendere molto popolare anche nelle province italiane il rock. Hai detto una cosa giusta. E quindi hanno cambiato l'ascolto delle gente. Prima parlavamo del limite fra pop e rock, esatto. Allora indubbiamente Elite FIBA hanno reso il rock italiano un po' più pop, e quindi hanno allargato gli ascolti, hanno allargato anche la frangia degli ascoltatori e dei cultori del rock, e quindi da questo punto di vista non mi sento di criticare. Tanto di cappello, indubbiamente. Noi non critichiamo, ma suoniamo, è il secondo pezzo, chiaramente. Cosa suoniamo adesso? Allora, adesso suoniamo il pezzo che dà il titolo al nostro album, che è appunto title track. Esatto, come si dice, quelli bravi. Che è Quanti ne sacrificheresti. Perfetto. 1, 2, 3. mentre cerchi un senso a tutto questo. Il senso ti attraversa in un momento. Quante vite sacrificheresti solo per sentirti una volta in meno a pezzi? Ogni cuore ha la sua svastica incisa dentro per l'eternità. Cereale, se fossi Dio, se fossi Dio, quanti ne sacrificheresti solo per sentirti una volta in meno a pezzi? Non è questo che chiunque fa. Bella, bella questa versione, potente, ma allo stesso tempo si sente la melodia che viene fuori, che si sviluppa, che cresce, che si allarga. Roxy, ma la melodia, questa è importante secondo me, non so cosa dici. Certo, indubbiamente un altro segno della nostra musica è coniugare l'impatto che può avere un suono rock, una struttura rock, con anche una tradizione, una certa tradizione della musica d'autore. Certo. E anche una tendenza, forse sempre degli anni zero, all'acustico. Quindi molto spesso noi tendiamo a mettere, diciamo, delle parti acustiche anche dentro i pezzi più rock. E indubbiamente anche la melodia, il fatto che abbia molto spazio la melodia, fa parte di questo, diciamo, di questo questa senso, idea, di questa idea di che si sviluppa, che si esatto. Continua a svilupparsi. Cioè praticamente abbiamo detto all'inizio di trasmissione che poteva essere un greatest hits, sempre tra virgolette, una serie di pezzi scritti in epoche diverse, perché il corollario per arrivare finalmente a questa fatica, è stata una fatica incidere un album, secondo me una fatica notevole, un grande pathos, una grande resistenza. Beh, indubbiamente, anche ci ha avuto veramente molta caparbietà. Ecco, caparbietà, poi, giusto. Perché poi per come si è messa la scena discografica italiana, oggi come oggi quasi tutti devono, come dire, prodursi indipendentemente. Esattamente. Quindi da un punto di vista esecutivo, utilizzo questi termini tecnici, bisogna produrre, scusatemi, il disco. Cosa vuol dire? Che l'artista stesso deve essere imprenditore, deve mettere dei soldi per fare il disco. Non c'è più l'etichetta che ti paga il disco nella maggior parte dei casi. E già qui, voglio dire, ci vuole molta convinzione. Certo, no? Vuole molta convinzione. Dopodiché possono esserci episodi più o meno sfortunati che possono portare a protrarre la registrazione del disco. E quindi altre spese, dopodiché magari una parte del gruppo può abbandonarti nel momento della... Sì, può capitare, può capitare. Veramente, a noi sono capitate tutte, cioè tutto tutte quello le che cose. Poteva capitare ci è capitato, eppure nonostante questo siamo qua, il disco l'abbiamo fatto e credo che anche questo in un certo senso distingua noi da molti altri. Non voglio dire che noi siamo migliori di altri, però ma di qualcun altro sì. Siete stati capaci, tenaci soprattutto, esatto, siete tenaci. Andati avanti senza, superando gli ostacoli, ci sono le difficoltà. Stati dei momenti in cui veramente finita la prima fase di registrazione un po' abbandonati a noi stessi, io parlando con Francesco ci guardavamo e dicevamo ma cosa stiamo facendo? Appunto. Perché questo diventa, se è un hobby, diventa un hobby veramente costoso, ma non solo economicamente, perché poi sai, ognuno ha il suo portafoglio, decide cosa spende e cosa può fare, è anche costoso come emozioni e psicologicamente, perché ritrovarsi dopo 2 mesi, 3 mesi, 6 mesi, 10 mesi che non se ne vede la fine, che ci sono sempre problemi, sempre contrattempi, ti fa anche dubitare delle tue capacità a volte, ma forse è colpa mia che non riesco ad andarne in fondo. Ma Carlo, quanto bello è vedere un disco vostro faccia scura là pronto per essere acquistato anche nei concerti, è una cosa meravigliosa secondo me. Quando sono arrivate stampate le copie siamo andati a ritirare i cartoni no? Con le belle scatole da 25 cd tutti belli in cellofanati, certo. Io devo essere onesto, quando sono arrivato a casa ce li ho a casa io perché Francesco all'epoca non aveva tanto spazio, allora ho io i 7-8 cartoni delle 1000 copie stampate. Adesso per fortuna sono di meno. Bene, quindi ne avete vendute, questo sì, è positivo. Devo essere sincero, quasi mi commuovevo, perché mi sembrava, io non sono più un giovincello che può dire che c'è sempre una seconda occasione, un secondo giro di giostra. Vederli lì finalmente dopo tanta fatica, porca miseria, una soddisfazione enorme, veramente. E anche la prima copia, prenderla e toglierla dal cellophane, come quelli veri col bollino se hai, sembrava quasi mitologico. Una volta c'erano gli LP che con cura sì. Certo. Adesso non ci sono gli LP, ci sono i CD, ma no, qualcuno li compra ancora, tipo io. Ecco, esattamente, qualcuno li compra ancora. Però l'emozione è sempre la stessa, sì, fortissima, sì, c'è poco da fare. Sì. Puoi comprare il CD a di bello che rispetto a quello che molti fanno adesso, che a quelli bravi scaricano sui negozi digitali e lo comprano il disco, quegli altri meno bravi lo scaricano e basta. Poi dopo è bello scaricare e avere 100.000 canzoni, ma io mi domando, ma quando le ascolti? E poi, non hai pensato che l'artista, se i 10 pezzi li ha messi in quell'ordine lì, è perché te li voleva far ascoltare in quell'ordine lì? Questo è vero. Vorrei vedere cosa capiscono quelli che si scaricano adesso, no? The Wall dei Pink Floyd in MP3 dalla rete e poi lo ascoltano saltando da una traccia all'altra a caso. Non si è può. Una storia. Non si può. Infatti, una impossibile, cosa impossibile. Non si io, può. Io sono rovinare andato The fino Wall, a Treviso così. Per comprare il vinile originale degli anni del 79 di The Wall dei Pink Floyd. Quello doppio. So cosa sta dicendo. Quello doppio. Non sì, si quello cosa, doppio, bellissimo. Una cosa fondamentale bellissimo. Per me è avere proprio l'oggetto, perché sì. Un disco che a me piace o che amo mi trasmette un sacco di emozioni, certo, e riuscire a collocarle tutte in un unico oggetto è innanzitutto una comodità, ma poi l'oggetto in sé prende un valore che è veramente troppo elevato rispetto al prezzo che ha un CD, quindi per me avere un pezzo, cioè avere proprio un CD di un gruppo, di una band, di un artista in particolare che mi piace è fondamentale. Poi capisco anche chi scarica. Ok. Però... benissimo. Allora adesso facciamo sentire un altro pezzo che in realtà è il numero 2, mi pare, Il tuo paradiso. Pezzo molto bello, molto lungo, però qui, come si sa, voi non lo sapete, ma ve lo dico io, non si taglia assolutamente nulla. Bene. In onda fino all'ultima goccia, chiaramente. Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Vedi o incomunicato. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ok, diretta a rockway.altervista.org. Stasera ci potete sentire e vedere, anche vedere con la telecamera, sono in funzione, quindi salutate i vostri, tutti i vostri fans che vi stanno vedendo e ascoltando. Ok, abbiamo sentito questo pezzo. Allora, c'è sempre un giochino, ve l'ho detto qualche secondo fa, potevo anche non dirvelo, ma ve l'ho detto lo stesso. C'è un piccolo giochino velocissimo, visto che abbiamo poco tempo stasera. Non i cinque fatidici dischi da portare su un'isola deserta, che non è l'isola dei famosi dell'avventura, Docet, ma no. Esattamente, non c'entra assolutamente anche se niente. Però quindi, i dischi buoni potrebbero anche ascoltarli finché sono là. Ah, beh, può darsi, sì. Quella, sarà anche la puntata. Ci sarà una nuova edizione il prossimo anno, purtroppo. E, ma ci sarà. Adesso facciamo due cose, due dischi a testa, velocissimamente, a vostro piacimento. Allora, inizio io, così vai. Gogliate, innanzitutto Grace Jeff Buckley. Enormemente bello, certo. Si può dire così, enormemente bello. E poi Super Unknown di Soundgarden. Come mai Soundgarden? Ragazzi, sono veramente un mio amore musicale, giovanile, credo che siano stati uno dei più grandi gruppi rock in assoluto, in tutta la storia della roba. Condivido. Ecco. Benissimo. Vai col batterista adesso. Per quello che mi riguarda, sempre dei Soundgarden è Bad Motorfinger. Va bene. E un altro gran disco è Purple degli Stone Temple Pilots. Bello Stone Temple Pilots, bellissimo, interessantissimo. Vai Carlo. Allora io direi Born to Run di Bruce Springsteen. Dobbiamo sollevarci in piedi, il boss è sempre il boss, c'è poco da che fare. È veramente, quella è una mia passione, mania quasi, ho visto ormai più di 60 concerti. Non muore mai musicalmente parlando. Ma io spero che anche nella vita non muoia mai, così posso tornare a vederlo a San Siro. E poi Ten dei Pearl Jam. Ecco, una cosa, velocissimamente, è stata fatta una riedizione di Ten recentemente. È stato rimasterizzato, ripulito, tutte queste cose qua. Suona meglio prima? Secondo me. Secondo te? Sì. Even Flow con i frusci sotto è molto più bello. Perché ha venduto nel corso del tempo, non all'inizio, ma poi lentamente poi si è sviluppato con vendite incredibili. È un grandissimo album, forse più bello secondo molti dei Pearl Jam. Tu sei d'accordo oppure no? Secondo me quello è la summa, quello è il Greatest Hits dei Pearl Jam. È il primo ha avuto quella distribuzione lì. Quello è un disco, secondo me, che rasenta la perfezione. Cioè, dalla prima all'ultima traccia. Non c'è. Ecco, mi porterei un terzo disco. I Temple of the Dog. Ecco. Hai fregato a Filippo praticamente. No. Vai. Allora, io direi Burn dei Purple e Pump degli Aerosmith. E come mai Burn? Visto che gli Aerosmith sono ho visto, sì. Hai visto l'Heineken Festival? Certo. Hai già preso il biglietto? Beh, ovvio. Come mai di Purple, Burn? Erano anni magici. Non Made in Japan, qualcosa d'altro. Erano anni magici, è stato il connubio anche della nuova formazione di Deep Purple. Ha avuto qualcosa in più, secondo me. Anche se gli altri album sono stupendi, però quello lì con David Coverdale, che poi. Certo. È stato Billy Whitesnake in tantissimi altri gruppi, Glenn Hughes. Sì. Questa figura quasi mitologica che ho avuto la fortuna di vedere un paio di settimane fa a Bologna. È stato veramente un grande album. E come mai Deep Purple ancora adesso, ancora recentemente, fanno tanti appassionati, secondo me? Perché la musica bella non ha età. Perfetto, la musica bella non ha età. Anche gli Aerosmith, allora. Certamente, proprio certamente. Tocca a te, vai. Pienamente d'accordo con lui. Con lui. Infatti volevo dire un disco di Deep Purple, adesso non l'ho già detto lui, quindi farò uno dei Jethro Tull. Quale di Jethro? Heavy Horses. Che non è un disco famosissimo. No, ma però mi piace tantissimo perché il basso che c'è in quell'album lì è veramente... Verissimo. Spinge parecchio. Spinge parecchio, sì. E poi è abbastanza complicato, è interessante, molto interessante. Ha lasciato il posto, ha lasciato lo spazio di Anderson in quel momento. Sì, purtroppo il bassista... Se n'è andato. Sì, se n'è andato molto presto, poco dopo credo l'uscita del disco. E poi The Wall, ovviamente, dei Pink Floyd, perché io i primi dischi che ho ascoltato da piccolo, ma piccolo parlo proprio 6-7 anni, tutti i dischi dei Pink Floyd, mio zio era un appassionato, aveva tutti i vinili e io andavo a fregarglieli, mi ascoltavo a casa. Versione vinile o versione di CD? No, vinile, io ascoltavo dal vinile. Ok. sì, quindi... E poi ho continuato a comprare, ma quando mi succede mi compro ancora il vinile perché mi piace l'odore, mi piace la grande forma del disco con l'immagine enorme sopra, è un quadro. I puristi dicono che The Wall si sente meglio in vinile, in doppio vinile, non so se sei d'accordo. No, io ho ascoltato sia il CD e il vinile e anche secondo me, parte che la resa del vinile è totalmente diversa, certo. Cioè, i suoni, ci sono delle frequenze alte che sono molto più brillanti sul vinile rispetto al CD, e non c'è niente da fare, secondo me, da quel punto di vista. E chiudiamo qua. Io amo particolarmente di Pink Floyd un album che loro non amano, che è Atom Heart Mother. Beh, io li ho tutti, quindi loro non l'hanno mai amato. Io lo amo alla follia, perché secondo me è un disco meraviglioso, una suite meravigliosa. If è un pezzo incredibile, nessun altro scriverà un pezzo come If, a mio parere. Ma secondo me anche tutto il lavoro di orchestra che c'è sotto, esattamente, non è niente male, quindi ecco tutto lì. Poi ovviamente io li prenderei tutti quelli in dischi, che li porterei tutti come i dischi che hanno nominato i miei amici, quindi adesso, ok, quindi, 22 e quasi e un minuto primo, siamo pronti a suonare? Ok? Sì. A suonare siamo sempre pronti. Benissimo. Allora, questa è 20.000 sere sotto il mare e la dedichiamo a Maurizio. Che è un pezzo meraviglioso a mio parere, un pezzo che mi ha subito colpito quando è arrivato il disco, che ringraziamo David Bonato che ce l'ha inviato. David Bonato della Davvero Comunicazione, che è anche la V-Rec, che è la nostra etichetta, che ringraziamo davvero per aver creduto anche lui in questo progetto. Benissimo. 20.000 sere sotto il mare. Quasi non ricordi più com'era, quando ci riuscivi a respirare e galleggiare sulle cose, ti sembrava naturale il peso del tuo cuore. Trascina sotto la tua superficie umana, sceso a picco in mezzo alla bufera, ma quel che fa paura è attendere. Il peso del tuo cuore ti trascina sotto la tua superficie umana, sceso a picco in mezzo alla bufera, ma non hai più paura, no. Non hai più paura di attendere, di vivere, di attendere. Di vivere, di attendere. Il mare, 20.000 sere sotto il mare, 20.000 sere. Radio Veneto. era già bello nella versione dal disco. L'avete proprio ricostruito, riambientato, rifatto nel senso positivo del termine. È una bella versione. Questa potete fare una versione che potete fare anche dal vivo. Sì, sì. Se potete, in qualche momento, qualche flash acustico. Esatto. In realtà, quando abbiamo i concerti acustici, riusciamo a portare a casa tutto il disco in versione acustica. Perfetto. Con qualche trucchetto, perché Francesco porta la sua scatola. E che trucchetti fa Francesco? Visto che ci siamo, con la svegliamo chitarra, i trucchetti di Francesco. Con la chitarra acustica ha tutti i suoi trucchetti, di usare un sacco di pedali, pedalini magici che di solito si vedono sulle chitarre elettriche, per dare un suono particolare, sempre bello pieno, sempre graffiante. Nonostante siamo in acustico, riusciamo sempre a essere belli incisivi. Allora, quanto siete sul palco? Tu cominci, sei al centro del discorso, visto che sei il vocalist. Vocalist dà sempre un colore ai pezzi, deve dare l'input. C'è la batteria, c'è il basso, c'è la chitarra di Philip. E Francesco, che cosa intelaia? Cioè, mette a posto tutti gli addetti, tutti i punti diversi. Sì, diciamo che è proprio pignoletto. È pignoletto. Stesso positivo. Sì, però. sì, no, ma del resto, se vengono bene i pezzi, è anche per quello. Anche un po' merito nostro, non è che. Cioè, però è che sicuramente, essendo una cosa che lui, questo disco l'ha maturato in tanto tempo, magari anche in solitudine, perché dei periodi in cui non si riusciva a provare, lui comunque è andato avanti a arrangiare, scrivere, cancellare, ripartire, e quindi nella sua testa questi pezzi sono come 10 creature che devono avere quella forma. E noi, siccome siamo veramente convinti delle sue capacità, perché quello che ha fatto è veramente bellissimo, e non è solo perché è mio fratello, chiaramente no, è un parere veramente tecnico, unanime, da musicista, condiviso, e unanime, sì, certo, ci sembra il minimo impegnarci al massimo per accontentarlo. Beh, quindi lui ha detto all'inizio della trasmissione che questo disco era suo, l'altro, il prossimo disco, sarà meno suo, ci sarà più collaborazione nel senso positivo del termine. Sì, beh, essendo finalmente arrivati a una configurazione di band definitiva, e quindi una continuità nelle prove, nel vedersi, nel parlarsi, è anche più semplice scrivere, perché chi arriva con un'idea poi c'è subito la conoscenza reciproca che ti porta a svilupparle. Questa prima ce l'avevamo solo tra me e lui. Quando lui scriveva, lui sapeva già che l'avrei cantata io, quindi anche come tonalità, certo, come incedere, come sapeva su quale tecnica vocale poteva basarsi. E io, quando cominciavo a pensare come abbellire, come arricchire, sapevo già cosa voleva lui. Adesso questa osmosi, che prima era solo a due, finalmente adesso è a cinque. È a cinque, una cosa molto positiva. Adesso facciamo sentire un altro pezzo, ringraziamo un momento e salutiamo la nostra redazione. Sai che abbiamo una redazione al femminile, sono tre ragazze che ci seguono, sono Nicoletta, però Patrizia e Silvia. Non le portate mai in radio. Arriveranno qua un giorno o l'altro, un sacco di torte, dicono. Quindi sarà un sacco di torte. Un sacco di torte da mangiare e altre cosette. In ogni caso ringraziamo quindi la redazione al femminile, e questo pezzo che ci fate sentire dal disco qual è? Vi ricordate il titolo? Adesso lo decide Francesco, seduta stante. Mi pare la traccia numero 3 avevamo. No, la 3 l'avete suonata. La 3 abbiamo già suonata. Però, no, c'era. Vogliamo sentire La fame, era. La fame, sì. La fame. Che è la traccia numero 3, proprio La fame. Ok. Dal disco. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Benissimo, ecco, mentre il pezzo andava mi veniva in mente questo, il discorso del rumore, ma non è rumore, è suono praticamente. Questo è un sacco di intelaiature, di connessioni, di input che si sviluppano nell'ambito del rock, ma rock duro, ma non potente, durissimo, da non sentire, da ascoltare, si ascolta nonostante tutto. Beh, certo, questa grana che senti, che hai sentito. Giusto, hai detto una cosa giusta, grana. In questo pezzo, in realtà, diciamo, beh, dipende innanzitutto da una ripresa fatta bene, ma soprattutto dal lavoro di post-produzione che ha fatto Andrea Viti, che ricordiamo ancora, che ha utilizzato un metodo, ma qui mi piace dare qualche dettaglio tecnico, certo, magari anche come spunto. Bello così. Ha utilizzato un metodo di miglioramento del suono nato con i Beatles, nato direi anzi quasi per i Beatles, che si chiama reamp. Sì. Diciamo, in soldoni si tratta di registrare un suono e poi riregistrarlo facendolo passare attraverso questa scatoletta piena di circuiti misteriosi che non fa nient'altro che abbassare l'impedenza del suono, e quindi il suono, in termine, in gergo, che da prima è un po' gnocco, diventa più vibrante. Ho capito. E questo è il suono che viene fuori. E questo dà la grana, dà come dire la punta al suono. Benissimo. Adesso ricordiamo il vostro sito, che è molto importante. Sì. Ecco. Allora, il nostro sito, beh, vediamo il MySpace, che è la cosa più comoda, snella e agile, che è myspace.com/facciascura, dove potete ascoltare qualche brano del disco, potete vedere anche il videoclip che è stato registrato per il brano Cavie, dal regista Michele Morando, potete trovare fotografie dei live, informazioni sui nostri live. In particolare vi segnaliamo che poi siamo qua anche quasi vicini, che il 30 luglio suoneremo allo Jesolo Music Festival, venerdì 30 luglio. Per le altre date adesso siamo in fase di definizione, ci sarà qualche sorpresa durante i festival in giro per l'Italia di quest'estate, e poi si riparte con la stagione autunnale da settembre in poi, e probabilmente anche a seguito un po' del reunion tour dei Karma. Sì. Come altra segnalazione vi do anche un altro MySpace, che è quello di una nostra idea che insieme ai Karma abbiamo, e altri gruppi di Verona, Torino, Milano, abbiamo creato una sorta di booking autogestito, no profit. È una bella cosa questa. Si chiama Amanita Booking, anche quello su myspace.com/amanitabooking, ovvero sono 6-7 artisti che invece che rivolgersi a dei professionisti che si fanno pagare, certo, condividono tra di loro esperienze, contatti, numeri di telefono, locali dove si è già suonato, in modo da poter creare quello che negli anni 90 era la scena, ovvero il ritmo tribale. Dicevano ai Karma: questo venerdì non possiamo andare a suonare noi a Rolling Stone, andateci voi, noi vi facciamo la data vostra ad Arezzo della settimana prossima. Ricreare questa condivisione, che secondo me è alla base poi della crescita musicale di ognuno, perché se uno si rimane chiuso nel proprio studiolo a farci le sue cose e anche dal punto di vista economico è una cosa importante. Sì, anche perché di solito al booking si dà dal 15 al 30% del cachet, e in questo caso invece nulla viene dato al booking. Dove possiamo trovare il vostro disco? Allora, il disco si può trovare in tutti i negozi d'Italia, perché è stato distribuito Venus, in particolare nelle Fnac. Credo che sia la Fnac di Verona che la Fnac di Milano è presente il punto d'ascolto, dove possono anche ascoltarlo, così possono decidere se comprarlo o no. E poi su tutti gli store, iTunes, Amazon, ha un prezzo calmierato popolare, ossia di 9,90 euro, che lo compriate online o fisicamente. Compratelo fisicamente il disco, che è proprio bellino, anche il booklet. E chi l'ha fatto questo? Allora, tutto il progetto grafico è stato fatto da Francesco, proprio questa è una sua creatura, dall'inizio alla fine. Dimmi. No, vieni, a parte. Ah sì, c'è anche mia moglie in copertina. In copertina è la moglie di Francesco. Eccola qua. Quindi è proprio tutto suo. L'unica foto che nel booklet che non è stata fatta da Francesco è quella che all'interno, che è stata fatta da Silvia Pasquetto, che è una bravissima fotografa e anche un'amica, che così si è divertita a fotografare le vostre brutte facce. Le vostre facce, diciamo. Vogliamo ringraziare anche di nuovo David Bonatto di Davvero Comunicazione Via Rec, che ci supporta in questa avventura, e ringraziare di nuovo all'infinito I David Moretti, che ha suonato, Andrea Viti, Giancarlo Norato, Franci Omi, che ha suonato tutte le tracce di pianoforte nel nostro disco. E ovviamente vogliamo ringraziare per il supporto che ci stanno dando adesso e le emozioni incredibili che ci danno tutti i Karma riuniti finalmente: Pacio, il Conte, Andrea, David e Diego Besozzi, che ci regalano ogni volta delle grandi emozioni. Perfetto, suoniamo un pezzo adesso. Che titolo avete deciso? Allora, il prossimo pezzo che vogliamo suonare è Spettri. Bellissimo, ripeto, bellissimo. Questo l'amore sa fare di noi favole nere per la notte e per il giorno. Eri la casa più buia e sicura in cui avevo sei ancora piano sotto piano fino al centro. Portavo la mia voglia nell'abisso che hai dentro. A perdersi e il mondo da noi non arrivava mai, mai. Si estingue l'amore ma resta qui ad infestarci per la cieca voglia di esserci che hanno gli spettri. Na na na na. Fest per la cieca voce. Radio Sera. Blu Radio Sera. Due considerazioni, almeno una in questo pezzo. Un pezzo difficilissimo, secondo me, questo qua, perché ha un sacco di stop and go. Siete stati bravissimi, è molto difficile, già è molto difficile secondo me, abbastanza complesso, anche se non sembra nell'album. E qua in acustico era molto strano, molto complicato, ma l'avete eseguito benissimo. E questi stop and go danno un colore, un suono veramente notevole al pezzo, a mio parere. Io l'ho sentito così. Beh, grazie, in effetti è uno dei pezzi tecnicamente più difficili da eseguire live. Proprio per questi stop and go. Che poi in realtà sono la caratteristica d'arrangiamento più originale nel pezzo, nel senso che è una ballata, sì, ma viene inserito nell'arrangiamento questo elemento ritmico, che però non deve mai essere invasivo, perché altrimenti snaturerebbe per l'appunto il pezzo. E il fatto che si sia notato anche nel live, insomma, vuol dire... forse ci vuol dire che l'abbiamo fatto abbastanza. No, l'avete abbastanza fatto benissimo, secondo me. È una cura molto particolare, anche nel cantato da parte di Carlo. Non posso dire, non è brutto dire giochetti, non è un giochetto. Quella serie di cose, di accordi che tu fai in questo momento, che poi gli altri ti seguono, che quello fa parte del pezzo, dà un certo tono al pezzo, secondo me. Sì, è proprio la particolarità dell'arrangiamento, cioè si tenta, senza poi esagerare, no? Di mettere dentro dei condimenti in questo caso appunto con la chitarra acustica, dei condimenti che rendono il pezzo dal punto di vista dell'arrangiamento più interessante. Quindi. Esattamente. Benissimo, e abbiamo finito, ragazzi, sono le 22:24, abbiamo gli ultimi 5 minuti da dedicare un pezzo live. Grazie di Faccia Scura. Beh, grazie a voi invece di averci ospitato, è stato veramente bellissimo. Io sono stato molto contento, soddisfatto, perché avete dato proprio vigore ai pezzi, soprattutto in questo ultimo pezzo, avete dato una colorazione decisamente molto particolare e ben fatta. Prossima settimana, cioè fra 2 giorni, avremo un musicista, un bluesman, si chiama Robby Zonka, quindi mercoledì prossimo non ci sarà più il mitico Francesco Galanti in regia, ma ci sarà Alberto Carbone, perché il mitico, sai, questa settimana non c'è, tornerà la prossima settimana. Grazie di tutto, Faccia Scura, e ci salutiamo con un altro pezzo live, chiaramente. Sì, l'abbiamo già sentita nella versione del disco, ma siccome a noi piace veramente tanto questa canzone, vogliamo riproporre in versione così acustica Il cielo dei Karma. Benissimo. Le mie mani come io lentamente il cielo. Radio Sera.